brutal. Encendió nuestra pasión. Melog 2.0. 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non è detto che tutti quelli che ascoltano a quest'ora questa trasmissione, in particolare me, siano tenuti a sapere che per qualche decina d'anni abbiamo osservato minuziosamente la televisione come grande macchina parlante, come specchio riflettente dell'umanità, dei suoi splendori, delle sue miserie. Perché io ieri annunciai al gruppo di ascoltatori che mi segue ormai giorno per giorno, ora per ora, momento per momento, ogni volta che mi siedo davanti a un computer, io ci sto, diciamo, un numero considerevole di ore al giorno, trovo qualche centinaio di persone che mi sollecita, vuol sapere di cosa parliamo, di cosa parleremo, già comincio a fare una pretrasmissione ancora prima della messa in onda, della diffusione radiofonica del nostro pensiero. Beh, io ieri annunciai: domani parliamo del Grande Fratello, perché secondo me si è maturato il momento per cui anche in questo spazio affrontiamo questo appuntamento quasi decennale con l'Italia, con la sua rappresentazione attraverso degli eroi simbolici, eroi o antieroi, se questo dipende dal punto di vista, come se fosse una grande arena in cui si svolge un'ordalia, una sorta di giudizio divino, in cui rappresentanti di alcune categorie umane, categorie del pensiero, modelli, parametri esistenziali si confrontano e permettono comunque a chi sta dall'altra parte e chi osserva gli osservati di trarre conclusioni, di fare anticipazioni, di prendere parte. Questa edizione del Grande Fratello, la nona edizione per l'Italia, è stata già anticipata da un grande scontro politico. Il leader dell'opposizione, Walter Veltroni, ha impugnato il Grande Fratello come esempio di estrema diseducazione delle masse teleutenti. Non è una presa di posizione nuova, nemmeno originale. È sempre possibile stare dalla parte dei buoni, stare dalla parte dei probi, stare dalla parte dei giusti, indicando e accennando con disprezzo coloro che stanno dentro la televisione, coloro che si contaminano fisicamente, palesemente, con lo spettacolo televisivo. Io sono dell'opinione che in realtà la televisione appartenga a tutti noi. Ho più volte detto, lo ripeto anche in questa occasione, che in realtà non esiste l'atteggiamento delle vergini vestali, di coloro che dicono io il televisore non lo posseggo, non ce l'ho, lo tengo spento, o peggio ancora, guardo solo quei bei programmi educativi di Piero Angela, che è la più terribile delle menzogne che possa proferire un personaggio a cui si chiede cosa guardi te, qual è il tuo rapporto con la televisione. Guardo solo la televisione educativa, guardo solo la televisione culturale, voglio imparare qualcosa dalla televisione. Oggi dalla televisione non si impara più nulla, perché la televisione non è affatto avanti rispetto al progredire dell'umanità, ma la televisione è sempre un passo indietro. La televisione riflette, la televisione non anticipa mai, la televisione non crea pensiero, la televisione non è uno strumento di avanguardia, è uno strumento di estrema retroguardia, come tutto il sistema mediatico, che in fondo sta cominciando affannosamente a dare i segni di stanchezza. Noi ci siamo abituati a pensare che in realtà ciò che oggi valga, questa era un po' l'idea di Veltroni, ciò che conta essere rappresentati, avere un livello di visibilità al di là delle proprie qualità, delle proprie oggettive competenze. Il Grande Fratello sarebbe, in una lettura realistica ma superficiale rispetto ai tempi, lo strumento più eccelso in cui il non talento ottiene la gratificazione. Ma in realtà io sono convinto, e oggi questa è la riflessione che vorrei fare assieme a voi, che il Grande Fratello in realtà lo stiamo vivendo noi. Noi siamo immersi nel Grande Fratello. Il Grande Fratello quello che sta da quest'altra parte. I ragazzi ormai sono come dei teatranti, come degli attori che recitano un copione già visto, che già appartiene al passato, non c'è nulla di nuovo, semmai non fanno altro che ricordarci alcune categorie umane che appartengono alla nostra esperienza quotidiana. Sono i nostri familiari, sono i nostri figli, sono i nostri amici, sono le persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Non abbiamo fatto in tempo a cominciare che il Grande Fratello si trova già al centro del mondo, nel senso che intorno al Grande Fratello ci sono state un sacco di polemiche in questi giorni, in queste settimane, molte discussioni, insomma. Adesso vi facciamo vedere un piccolo assaggio di quello che sta succedendo, perché sta succedendo veramente qualsiasi cosa. L'arcigay accusa il grande fratello, una concorrente è razzista, dicono tutto nasce da una discussione in casa quando Federica, che è una delle nostre concorrenti, critica alcune idee sugli omosessuali. E poi la prima doccia della atomica Cristina, che conquista internet e tutta l'Italia parla di lei. Le sue forme interessano TV, giornali e celebri intellettuali anche. Che cos'è questa? La rivincita delle maggiorate? Tanto è vero quello che noi ipotizziamo, che la conduttrice Alessia Marcuzzi apre ieri la tenzone prendendo spunto dalla realtà, il luogo della massima realtà, il luogo della rappresentazione e degli aspetti deleteri della realtà, il luogo del cattivo esempio, il luogo in cui si consumerebbe un delitto continuo, continuato, reiterato e premeditato nei confronti della realtà. In sostanza è il punto d'attenzione di tutti gli organi che riferiscono della realtà. Mi fa riflettere su questo anche Paolo, che mi scrive su Facebook, dice: vedi Gianluca, tutti fanno gli schizzinosi perché parli del Grande Fratello. Sì, perché c'era stata la solita levata agli scudi, anche te, ci meravigli, domani non ti ascolteremo, ci parli del Grande Fratello, non vogliamo nemmeno sapere di cosa si tratti, non ci riguarda, non ci interessa, non siamo noi. È qualcosa fatta per persone con un quoziente intellettivo inferiore. È l'intrattenimento per gli inferiori. Noi siamo superiori. Noi cosa facciamo? Leggiamo un buon libro, ascoltiamo della buona musica e via dicendo, con tutto l'elenco delle banalità a sostegno della tesi astensionista, della tesi negazionista nei confronti della realtà quotidiana della rappresentazione televisiva. Beh, mi diceva questo signore, dice: guarda il Corriere della Sera online e guardi quali sono le due notizie più lette nella giornata di ieri, cioè parlava, scriveva ieri. Una era quella che la madre di Cristina, concorrente del Grande Fratello, ha saputo la notizia che la figlia facesse la cubista, dice: non lo sapevo, sono senza parole. E l'altra è la vicenda sulla Cristina Del Basso, la super maggiorata, che fa impazzire la rete. Quindi a questo punto uno degli organi di informazione più autorevoli del nostro paese, che veicola giustamente notizie serie, notizie concrete, le hard news, quelle che interessano veramente la parte attenta, produttiva e austera, e che non si fa distrarre da queste facezze del nostro paese, deve conteggiare come notizie più viste della sua versione online le notizie relative al Grande Fratello. Quindi significa che all'interno del Grande Fratello esiste un meccanismo fascinatorio per cui assomiglia molto a quelle che sono poi in realtà le leve del quotidiano che muovono la nostra società. Mi fa riflettere qualcun altro in questo momento, sempre su Facebook, dice: quale reality più meraviglioso è la vicenda del calciatore Kakà? Bellissima, ci siamo appassionati per un paio di giorni alla vicenda di questo bravo ragazzo conteso da sceicchi a suono di fantamiliardi e che finalmente invece rimane a casa nostra. Bellissima, una storia che in sé sembrerebbe quasi una nomination, una presunta nomination verso una sorta di paradiso irraggiungibile, una scelta proba etica che ci gratifica, che rimane comunque a far parte di casa nostra. Ma in particolare questa ultima edizione del Grande Fratello, devo dire, tocca leve sempre più profonde. Non dico che esista una desiderio profondo di portare contributi etici al nostro paese o di fare un servizio al nostro paese. Chi costruisce un programma televisivo fa parte di una necessità di dare un prodotto che abbia successo, che sia sul mercato, e quindi usa tutte le leve e tutte le astuzie e tutte le possibili tecnicismi perché questo prodotto abbia successo. Perché questa edizione abbia successo si toccano alcuni punti che non a caso, come ci dice la Marcuzzi, fanno parlare i giornali. Tocchiamoli uno per uno e vediamo di analizzarli nel corso di questa trasmissione. Intanto invito di chiamare all'800 24 00 24 quanti hanno qualcosa da dire della loro esperienza personale, del loro rapporto con questo tipo di televisione. Poi secondo me non esiste questo tipo di televisione, un altro tipo di televisione, la televisione è unica, la televisione è un grande occhio aperto sulla nostra realtà, su quello che noi siamo, e guardando il Grande Fratello e vedendolo con questa attenzione capiamo esattamente quelle che sono le sottili tendenze, i sottili pensieri, profondi interrogativi che attanagliano anche la nostra società. Uno di questi è una, alcuni lo definiscono un'astuzia, probabilmente un insistere su temi forti, su temi emotivi. L'emotività trabocca da questa trasmissione. Non a caso la cifra emotiva più percepibile in questo Grande Fratello è il pianto. Piangono tutti dei grandi pianti, uomini e donne piangono, la lacrima facilissima, sembra in questo momento l'istinto liberatorio del pianto sia quasi una richiesta che viene fatta all'ascoltatore: ma dai, piangi, sfogati, esci, datti finalmente a un pianto liberatorio, ti sentirai meglio. Sembra questo quasi il messaggio subliminale più forte, più potente, perché si è notevolmente attenuata anche la spinta sessuale, la spinta erotica, che sembrava la più riprovevole cifra di queste trasmissioni, in cui le persone erano messe in questa sorta di stia per polli, in questo osservatorio di cristallo, perché molto velocemente si accoppiassero e da questo accoppiamento si traesse interesse. Oggi vanno già abbastanza predisposti all'accoppiamento, non esiste più una possibilità di capire e definire chi farà per primo il grande passo, sono tutti pronti a fare qualsiasi passo in qualunque momento. È una classe di professionisti del reality show, e per vincere, appunto, per superare lo scontato atteggiamento di chi si trova di fronte ai professionisti, è stato fatto un passo avanti. Mi chiamo Jerry, ho 31 anni e vivo a Roma da diversi anni, ma sono d'origine calabrese. Ho un modo di vedere la vita tutto mio. Non vedo così, neppure così, ma io vedo così. Sono non vedente dalla nascita, ho subito molti interventi chirurgici agli occhi, ma per fortuna, pur avendo sofferto molto da piccolo, oggi mi sento un uomo realizzato in tutte le cose della mia vita. Entra un cieco al Grande Fratello. Apparentemente nulla di straordinario, il tema della diversa abilità rappresentata in televisione è un tema molto, molto già usato, molto, diciamo, abbastanza logorato. La televisione vuole sentirsi buona, la televisione vuole mostrare i propri sentimenti, dando spazio a coloro che nella società hanno spazi più difficili. Ciò non educa assolutamente, o perlomeno molto raramente, la persona comune avere un'attenzione maggiore verso chi ha magari più difficoltà a muoversi tra la gente, a orientarsi, a avere una pari opportunità di servizi e di attenzione dai propri simili, solo per il fatto che venga rappresentato in televisione. Però portare il cieco all'interno del Grande Fratello, devo dire che è un passo interessante. Escludo a priori, voglio dirlo, la volontà, la necessità di fare comunque un servizio sia al cieco, sia alla causa dei non vedenti, sia alle persone che guardano, sia alla sensibilizzazione generale. Dal punto di vista del pathos, devo dire che molto cinicamente, molto freddamente, l'obiettivo è stato raggiunto. Jerry, il cieco che va al Grande Fratello, è un ragazzo molto interessante come personaggio, è un bel ragazzo, dimostra una grande sicurezza, è al di fuori di ogni stereotipo possibile e immaginabile, non gioca solamente sulla leva del pietismo, la diversità, anzi anche molto spavaldo, come giustamente gli deve essere, e soprattutto è antitetico a un luogo in cui sembra che la rappresentazione visiva, il colpo d'occhio, sia la cosa più interessante. Tutto il Grande Fratello è un grande artificio, è un grande paese dei balocchi. La meraviglia di questi ragazzi quando entrano nella casa è per buttarsi subito nella vasca idromassaggio, per spaparanzarsi subito sui divani, per saltellare ammucchiati, promiscui, sui grandi lettoni colorati. In capo a 3 giorni la casa del Grande Fratello diventa un grande guazzabuglio, scarpe ovunque, mutande in ogni angolo, gente che si cambia continuamente, si mostra nel disordine totalmente irrazionale, informale, caotico di questi ragazzi la necessità di contaminare con qualcosa di umano la disumanità dell'apparato formale di questa casa del Grande Fratello, che sarebbe da vedere come se fosse una rivista di arredamento, ma per burini naturalmente, perché non c'è ricercatezza se non quella esposta nei grandi magazzini del mobile, non c'è raffinatezza se non quella data dalla pretestosità di imitazione a distanza di qualcosa che nell'area, come marchio, come forma, come colore, come sostanza. E mettere una persona che non può godere attraverso il senso della vista di tutte queste meraviglie significa fare comunque un passo interessante, quel famoso passo sghembo, passo laterale che crea maggiore attenzione nei confronti del programma televisivo. Lo voglio presentare perché credo che sia giusto anche per lui fargli provare l'emozione del passaggio in studio, quindi chiederei alla regia Sergio di aprire la grata e Jerry è lì dietro. Bello, bello, bellissimo. Di brutto, no, quando ci siamo incontrati oggi ero più emozionata, a parte ci siamo incontrati anche un'altra volta e siamo stati a lungo a chiacchierare, però oggi ero più emozionata io, tu mi sembravi molto rilassato, ti ho detto allora come sarà questa sera, come ti senti adesso? Allora, emozionatissimo, però è un piacere essere presente qui perché riconfermo di nuovo quello che ho sempre detto, mi piace sperimentarmi nella vita e questa è una grande occasione per mettermi ancora una volta in gioco, quindi quale migliore occasione di questa? Devo dire che il punto di vista del cieco è sempre stato un grande rovello mio di questa trasmissione, tanto che noi, in epoche non sospette, delegammo una nostra amica cieca di guardare per noi la televisione e ne traemmo degli insegnamenti formidabili. Non accetterei da altre persone un'osservazione televisiva diversa dalla mia se non da una persona che non ha il senso della vista ma ha un senso di attenzione diversa rispetto allo spettacolo televisivo. Questa persona ormai nota al pubblico di questa radio è Antonella Cappabianca, che naturalmente non potevamo fare a meno di investire nella giornata di ieri del gravoso compito di guardarsi il Grande Fratello. Antonella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Per te è stato un incubo, lo so, quando hai ricevuto la nostra telefonata, ma già te lo aspettavi, non potevi sfuggire a questo tuo destino. No, invece devo sfatare subito questa cosa. Tu sei visto con piacere? Sì. Insomma, ci sono state delle cadute tipo lo gnoccometro, magari. Ecco, su questo mi hai anticipato. A questo punto, innanzitutto l'entrata di Jerry nella casa del Grande Fratello, come te la sei sentita te, mentre appunto normale. Assistevi a questa sua entrata? Sì, normale, meravigliosamente normale, posso dire. Sono stati bravi da questo punto di vista? Sì. E astuti? Sono sicuramente gente che fa il suo lavoro. Io poi non... Diciamo, un po' di paraculaggine c'è, Antonella, ce lo possiamo dire. Ma perché se c'è per tutti non ci deve essere per chi no. Cieco? No, dico dal punto di vista non del cieco, del produttore televisivo che ha detto. Tutte le storie vengono mandate, vengono messe lì, no? Vengono offerte, diciamo così. E anche questa storia viene offerta ed è stata offerta, sanno fare il loro lavoro nel modo forse migliore. Diciamo che lui è un bel personaggio. L'impressione immediata è di un ragazzo che divertente, trasmette divertimento, mi piace. Quando è entrato nella casa sono rimasti tutti muti, ammutoli. Una si è messa a piangere, una delle più cretine di quelle lì si è messa a piangere, si inghiozzava perché ce l'ha fatto la civetta fino a 10 secondi prima, quando era fuori dalla stanza, come è entrato, l'ha visto col bastone bianco, è scoppiata in singhiozzi. Secondo te perché? È quello che succede un po' a tutti noi quando andiamo in giro. Beh, quando t'ho visto mica mi sono messa a piangere. No, vabbè. Non mi faceva ridere il tuo cane, mi ricordo. Siamo tutti uguali, però non so, tante volte succede che una persona ti dice che non lo vede, tu gli dici no, e la persona si... Veramente, è capitato anche a me, si mette a piangere, o comunque se non si mette a piangere si scusa per la restante parte della giornata o dell'incontro, ecco. Diciamo che l'impatto dell'entrata di Jerry dentro la casa dei ragazzi è stato un momento abbastanza differente da quelli che normalmente si vedono in televisione. Perché c'è stato tutto il preludio, il preambolo, la sorpresa, le domande che gli facevano le ragazze, lui rispondeva molto, molto divertito, molto bravo, dando fascino e carisma alla sua presenza. È entrato facendo capolino con il suo bel cappelletto in testa, anche lui aveva tutti gli accessori carismatici da concorrente del Grande Fratello. Certo, quando è entrato col bastone bianco, i ragazzi sono guardati tra di loro, non sapevano più cosa fare, erano rimasti impietriti. E rimaniamo anche noi impietriti con Antonella Cappabianca, lasciando l'attenzione sospesa per chi non ha visto ieri il Grande Fratello sul misterioso gnoccometro del cieco. 800 24 00 24, oggi stiamo guardando al Grande Fratello, non edizione del Grande Fratello. Mi scrive un ascoltatore, dice: ma queste missioni sanno tanto di promozione. Ma promozione di che? Stiamo parlando di qualcosa che è al centro delle cronache dei giornali quotidiani. Questa mattina la notizia del giorno è che Fiorello passerà a Sky. La televisione nella sua ansia nel suo desiderio, nella sua giustificazione di rappresentazione di quello che è l'umanità, in realtà è centrale l'attenzione di tutti. Parliamo del Grande Fratello perché il Grande Fratello siamo noi, noi siamo nel Grande Fratello. Quanti di noi sentono riconfermati e rassicurati delle proprie certezze, la propria appartenenza nel Grande Fratello quotidiano del loro ambiente di lavoro, ad esempio, dove ci sono tante persone che sono concorrenti per vincere una gara. La gara è arrivare primi, la gara è esistere, la gara è fare un, non dico un avanzamento, ma avere la possibilità di sopravvivenza, di sostentamento, di esistenza in un mondo che ti considera esistente solo se hai successo. Quindi la ricerca di piccoli successi quotidiani negli angusti spazi che ci viene dato di vivere è già vivere in un reality. Il reality in realtà che appariva come formula rivoluzionaria del sistema televisivo, altro non fa che riprodurre quella che è la norma dell'eliminazione, la norma del consenso pubblico dato semplicemente pigiando un pulsante, senza considerare poi le fattispecie, i contesti, semplicemente dato per operazioni e rappresentazioni momentanee, istantanee, improvvisate. Vinco perché sono stato bravo a fare il tuffo in piscina, vinco perché ho pianto nel momento giusto, vinco perché sono riuscito a commuovere il pubblico in quest'altro momento. Tanti piccoli espedienti per vivere i nostri grandi fratelli quotidiani. Ambrogio, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Pronto? Sì, sto aspettando il suo contributo a questa trasmissione. Sì, buongiorno a lei e complimenti per come conduce la trasmissione a lei. Ok, vai, passiamo. Ascolti, io volevo dire solamente la mia opinione, diciamo, magari forse può essere sbagliata. Lei prima ha fatto un'intervista a una signora, non so come... È ancora in linea, è Antonella Cappabianca, la nostra critica televisiva cieca. Ecco, io praticamente vorrei dire, cioè la mia opinione riguardo alla reazione dei ragazzi, diciamo al primo impatto, uh-huh, all'entrata di Jerry, che è una persona molto simpatica, è una persona molto intelligente. Beh, mica lo scelgono antipatico per portarlo in televisione. Allora, l'impressione, l'impatto che ho avuto io, cioè l'impatto che ho avuto con i ragazzi lì, secondo me dall'entrata di Jerry, il primo pensiero secondo me che hanno avuto, siccome che lì ci sono di mezzo degli interessi, cioè dei soldi anche, insomma. Vabbè, ci credo. Lì, c'è qualcosa di scandaloso, ci sono dei soldi di mezzo. Esatto, bravo. No, non c'è nulla di scandaloso, secondo me. Lì è anche per mostrarsi, non so. No, stanno lì esattamente perché oggi il mostrare. No, no, no, scusi, è fondamentale. Dire... Mi fa finire, dico, stanno lì per mostrarsi. Perché ecco, mostrarsi dire, oggi è un mestiere. Ragazzi, all'entrata di Jerry, loro hanno percepito, secondo me, hanno capito, cioè, secondo me, hanno pensato, entrando, diciamo, Jerry, che è un ragazzo non vedente, praticamente noi siamo spacciati, praticamente vincerà lui. Ah, ecco, cioè, questo è intelligente. Secondo me è un discorso egoistico. Cioè, siamo fregati, è entrato il cieco, è chiaro che vince lui. Questo hanno pensato. Aver detto, Jerry ha detto in diretta, cioè in televisione ha detto che lui vuole essere trattato come tutti gli altri, senza sconti, niente. Cioè, questo lo dice però, chiunque, questo lo dice anche... Loro questo non lo sanno. Anche uno raccomandato dal parroco, dal vescovo, dal sindaco, tutti dicono sono come gli altri, questo non dice nulla. Però secondo lei il loro atteggiamento di perplessità è dato dal fatto che hanno visto un concorrente imbattibile invece esatto. Questa no, è una considerazione interessante. Antonella Cappabianca, tu cosa dici rispetto a quello che dice Ambrogio? Si sono visti fregati, cioè questo di fronte... Guarda, ho troppa poca fiducia nell'intelletto umano per pensare che questa considerazione magari sarà venuta stanotte, maturerà nelle ore successive. Tu dici in pochi secondi, non avevano tempo il problema per... il problema è l'inizio, ma lo viviamo tutti, qualsiasi disabile lo può confermare, quando c'è un impatto con una persona che entra col bastone o con la carrozzina o comunque con delle protesi evidenti, di disagio, anche di disagio mentale, c'è l'impatto, c'è il oddio che faccio. È così, io non credo che, ti ripeto, veramente ho bassa fiducia nell'intelletto umano, non credo che si arrivi a pensare, sì, a in effetti è un pensiero un po' complesso. Per quelle menti, uscirà, non che le voglia sottovalutare, ma non hanno certo dato modo di dimostrare che quello è la parte che loro hanno più coltivato nella loro vita. Ecco. È un problema che secondo me uscirà e sarà forse anche abilmente tirato fuori, forse vedremo, ma dopo sarà successivo. Senti, Anella, invece un altro Questi ragazzi sono tutti agghindati, sono ridicoli perché è la sagra del burino del vorrei ma non posso. C'hanno quattro straccetti addosso, qualcuno con qualche piccola firma di paese che timidamente ostenta, ne sentiremo parlare forse fra qualche tempo, ma passano gran parte del loro tempo a chittarsi, a agghindarsi. La ragazza di cui parleremo dopo, che è stata al centro di una polemica perché si è lasciata dare frasi pesanti sull'omosessualità, Federica, passa per ex mannequin, ex modella, ma in realtà l'ho vista con interesse una sera passare un'ora e mezzo a mettersi uno straccetto sull'altro cercando di essere presentabile per una cena con i ragazzi, ma era sempre totalmente esageratamente goffa. Volendo mostrare una sorta di eccentricità nel vestire, in realtà non fanno altro che ribadire dei modelli da discoteca di borgata, da piccola balera di paese. In realtà è meraviglioso e questo ci appartiene, fa parte di noi, questo loro vorrei ma non posso, ma viene vanificato di fronte a un collega che in realtà non li può guardare, a meno che non metta loro le mani addosso. Sì, io non credo che loro abbiano ancora maturato neanche questo concetto. Mazza, te li sei guardati bene? Ti sei fatto mai un bel concetto. No, io non penso che il problema risieda fondamentalmente in questo, almeno adesso. Queste sono tutte cose che verranno dopo. Il problema dell'inizio sarà l'impatto, e poi devo dire che ieri è stato anche forzato, non so quanto volutamente, probabilmente molto volutamente, le battute su mi fido ciecamente, scambio di vedute, ce ne sono state una marea, io me le stavo segnando, alla fine ho smesso perché Era Jerry a fomentarle o faceva parte del... Siamo talmente tanto moderni che possiamo scherzare e dire al CECU guarda qua una cosa... Aspetta, il problema è questo, lo faccio anch'io, te lo dico in tutta sincerità, lo faccio anch'io. Scusami Antonella, noi siamo gli ultimi, possiamo... io e te abbiamo giocato sul fatto della cieca che guarda la televisione da 3 anni, quindi dovremmo coprirci il capo di cenere forse. No, assolutamente no. Il problema sai qual è? Che è difficile, anch'io sbaglio ancora oggi. Il problema è fermarsi al momento giusto. Cioè c'è un punto in cui dall'essere una battuta, una cosa che mette a suo agio l'altro, diventa una cosa che invece è fastidiosa. E ieri sera abbiamo sfiorato, insomma, alla fine è stato un po' eccessivo. Allora Antonella, 800 24 00 24, l'argomento è sin troppo chiaro quanto noi siamo immersi dentro un reality anche se prendiamo le distanze. Ma ci siamo interrotti noi in prima parte su una domanda tecnica che ti stavo per fare, che ricordo anche al pubblico introducendo un importante reperto preso dalla trasmissione di ieri. Spesso si pensa che chi non vede vive meglio, che ha grandi abilità. No, è solo l'uso dei quattro sensi che fa la differenza. E anche in questa esperienza sono pronto veramente, come ho detto prima, a mettermi in gioco e farmi conoscere per quello che sono. Senti Jerry, all'interno della casa ci sono un sacco di belle ragazze, no? Sì. Come farai a riconoscere, perché quando abbiamo parlato comunque logicamente tu parli di tutti gli altri sensi, però poi sì, c'è il tatto che per te è fondamentale soprattutto per capire come è fatta una persona. Questo è un oggetto semplicissimo ma geniale perché ha due funzioni. La prima è un riconoscitore di colori, perché molte volte si pensa che la persona che non vede non sia interessata al mondo dei colori, invece vi assicuro che ci interessa sapere i colori degli indumenti e non solo. A questo punto Jerry ha tirato fuori un suo apparecchietto che faceva un bip bip e ha cominciato a passarlo a distanza addosso alla Marcuzzi. E poi c'è un'altra funzione che si presenta da solo. Allora, praticamente tutti quanti voi sapete com'è fatta Alessia, perché voglio dire, la vedete, io non l'ho mai vista, e allora attraverso questo oggetto... Lì c'ha dei suoni un po' strani in quella zona. Come si chiama questo oggetto? Allora, scusatemi, devo fare un paio di lezioni di braille ad Alessia perché devo insegnarle un po' il linguaggio braille, quello tattile. So. Vabbè, allora noi praticamente ce ne andiamo perché mi devi fare queste lezioni. Vabbè. Comunque, per chi non l'avesse capito, questo è l'ognoccometro. Quindi... E dai tutta con l'ognoccometro! Antonella, penso che da oggi passerà la storia l'ognoccometro. Tu ce l'hai l'ognoccometro? L'ho regalato ad Alessandro, il mio fidanzato. Sei molto ma fiduciosa. Ma non lo chiamo come gnoccometro. Ma come si chiama quell'attrezzo? Volgarmente si chiama colorino. Beh, più volgare di gnoccometro difficilmente. No, cioè c'è anche un nome tecnico per cercarlo, cioè, c'è il suo nome proprio, che però francamente non credo di non aver mai saputo. Ce ne sono due versioni, ce n'è quella base che credo sia stata quella usata, che vede 100 colori. e quella invece che costa un botto che ne vede 1000. Insomma, perché quando glielo passava sulle tette suonava? Che c'entra col colore? Dicevo, perché quello lì praticamente, oltre a essere un colorino, è un rivelatore sonoro, nel senso che praticamente più c'è una fonte luminosa e più suona acuto. Serve per sapere se ti sei scordato la luce accesa, praticamente. Vabbè, ma la Marcuso c'ha i LED sulle tette. Infatti non, quello io non ho capito, non serve a niente, nel senso che semplicemente suonava diversamente a seconda di come lui lo inclinava e come recepiva la luce. Ma percepisce non, anche polimeri artificiali, cose del genere? Non è stato mai utilizzato nell'uso di ieri sera, credo, a mia conoscenza, non ne ho mai sentito assolutamente parlare. È stata proprio la prima volta in assoluto. E ti ripeto, serve soltanto per vedere se hai lasciato la luce accesa, ecco. In questo momento mi sembra fondamentale capire che quello che viene chiamato gnoccometro in realtà è uno strumento per riconoscere i colori, di grande utilità per un cieco, ma evidentemente un suo ampliamento d'uso è anche quello di riuscire a percepire le grazie delle colleghe della casa, ma sarà indispensabile nel dare gratificazione comunque alle altre ragazze che tanto sono date da fare, anche intervenendo drasticamente sul loro corpo, per essere ben visibili in quella casa. Maria Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. Mi sta ascoltando. Senta, volevo parlare a proposito del Grande Fratello. Siamo qua per questo, certo. Certo, la trovo una trasmissione molto noiosa, tutto lì. Io la sì, a volte è noiosa, ha ragione, sì, a volte è noiosa. Ecco, noiosa perché... Soprattutto all'inizio, finché non si scatenano come bestie l'uno contro l'altro, fanno finta sì, di essere però, tutti amici, non noi. Come si sa che questo scatenamento è studiato forse a tavolino e poi a volte lo scatenamento è su cose abbastanza sciocche, su temi abbastanza sciocchi, cioè diventa noioso vedere questa trasmissione sapendo già che ci saranno le questioni, questa che si lava, quella che si stira. E, secondo me, oggi come oggi, non attira più di tanto, anche se le statistiche dicono che è seguito tanto, la gente dice in effetti no, nessuno lo guarda, poi in effetti lo sbirciano tutti, e poi devo dire anche che ci viene molto propagandato, molto così esaltato, come la pubblicità, quindi ce lo infilano nella testa che se anche non vogliamo dobbiamo parlare, sentire o guardare questo Grande Fratello. Quindi ne siamo comunque contaminati, anche se ci illudiamo di non guardarla la televisione, in generale vale per la televisione, ma in particolare per questo tipo di televisione. Noiosa, ma non ecco, una cosa, signora, visto che... Sì. Lei considera così distante dalla sua esperienza quotidiana le persone che stanno lì dentro? Non potrebbero essere suoi nipoti, suoi figli, suoi parenti? No, anzi le considero cose quotidiane, siccome avvengono già nella vita, perché me le devo vedere anche alla televisione? Cioè, secondo me è un programma, chiaramente, se lo mandano in onda perché è seguito, beh, certo, facciamo questo discorso qua. Però non è così originale, così che ti appassiona. Lei però ha messo il dito su una cosa fondamentale. La televisione non deve essere mai originale. La televisione ha capito che la sua forza è rappresentare continuamente la banalità. Più rappresenta qualcosa di banale, di orizzontale, privo di complessità, è più ha successo. Scusi, l'unica cosa che penso che alla fine questo Grande Fratello crei dei personaggi... delle persone che non sono attori ma che comunque hanno partecipato a questo Grande Fratello, si fanno conoscere dalla massa, sono dei begli uomini, delle belle donne o interessanti o simpatici o qualche cosa, quindi si crea un personaggio. Per quello la gente ci va, per quello la gente, ho assistito davanti al Lingotto, mi ricordo qualche mese fa, a uno dei tanti casting, un piazzale intero pieno di persone e c'era veramente di tutto, nell'attesa di passare per quella fessura stretta della possibilità di essere rappresentati in televisione, che non è poco, è diventato un mestiere anche questo. Stefano, buongiorno. Stefano, buongiorno. È una radio accesa, la chiuda? Sì, ecco, se chiude la radio è meglio, grazie. È già chiusa, la ringrazio. Io ho chiamato per esprimere il mio disappunto e la mia contrarietà al Grande Fratello, perché penso non sia un buon esempio per la società. Anzi, mi stupisco del fatto che una trasmissione come Grande Fratello, sì lo so, fa tanto audience e in base all'audience va fatto tutto oggigiorno, mi stupisco che anche voi dalla Radio 24, che comunque vi apprezzo... No, perché si stupisce? No, questa me la devi spiegare. Non credo che Grande Fratello dia un buon esempio... No, scusi, io devo parlare soltanto di cose che danno un buon esempio. Lo so, però appunto con la signora di prima, diceva la signora che sono cose che si vedono tutti i giorni, anzi... Tutti i giorni nella società si vedono persone che stanno a litigare, persone che... quello che si vede nel Grande Fratello lo possiamo vedere purtroppo oggi, tutti i giorni nella società. Allora facciamo finta che le persone non litigano. No, ritengo che la televisione e la radio dovrebbe sforzarsi anche a cambiare la società, non solo nel... A parte che non ho questa vocazione, io semplicemente riferisco e racconto quello che guardo con un mio punto di vista, dando possibilità agli ascoltatori che mi ascoltano di aggiungere il loro punto di vista. Nessuno ha pretesa di cambiare nulla, ma noi stiamo in questo momento raccontando una fetta di realtà, un reality show che comunque interessa una fetta importantissima di pubblico, e non dobbiamo disprezzare le persone che guardano il reality, non sono diverse da noi, che rappresenta, abbiamo visto, comunque istanze che esistono nella nostra società, il desiderio comunque di riuscire a farcela, a sfangarcela, il giocare il proprio talento sulla costruzione della propria immagine, sono tutti parametri che oggi hanno una loro esistenza nella società. Io quando ho detto il Grande Fratello è il nostro luogo di lavoro, rendetevi conto, provate a analizzare il vostro habitat quotidiano come se fosse un reality, e ci vedrete tutti i personaggi, ci vedrete il grande osservatore, ci vedrete il pubblico che vi vota, ci vedrete le nomination. Sono delle chiavi di lettura del quotidiano. Sappiamo benissimo che non è il più edificante dei luoghi sul quale vorremmo formare i nostri figlioli, ma al momento che esiste, che i nostri figlioli sono contaminati con questa realtà, non parlarne sarebbe sbagliato. Noi cerchiamo di dare strumenti per leggerlo in questa chiave, ma prenderne le distanze e tirarci, sigillarlo in un luogo in cui sembra che non esista, non si fa altro che... è come la cameriera che mette la polvere sotto al tappeto. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Sono Maurizio. Dica lei. Io non sono uno snob, perciò mi piacerebbe tanto poterlo vedere, il Grande Fratello, perché purtroppo invece la mia compagna è snob e mi impedisce assolutamente di guardare un qualsiasi reality. E cosa la costringe a guardare? No, posso guardare tutt'altro, posso guardare, non so, Discovery Channel, tutti i programmi impegnati, ma mai un reality, nonostante lei invece non ci perda una puntata di Un Posto al Sole su Rai 3. Vabbè, questo è un problema suo, veda un po' lei chi comanda a casa sua, non so che dirle. Volevo confidarle un segreto inconfessabile, sì. Come il programma di ieri, qualche volta mi tocca andare a casa di amici a vedere le puntate del Grande Fratello. Pensi un po', c'è chi esce di casa dicendo da prendere le sigarette per consumare foschi adulteri, le va a vedere il Grande Fratello, vada in pace, diciamo, il suo candore l'ha salvato. Carlo, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti quanti. Purtroppo non ho più potuto seguire quest'ultima parte perché sono arrivato a destinazione, quindi sono sceso dalla macchina. Allora, non c'è niente di nuovo rispetto agli ultimi 10 anni, può dire quello che ha visto? No, di quello che vi siete detti sino a questo momento. No, non lo so, indubbiamente. Allora faccio una premessa, e non lo dico come fanno tanti che vogliono fare quelli che praticamente sono superiori. Io non ho mai visto una puntata del Grande Fratello. Ogni tanto mi è successo, perché in casa, avendo delle figlie che guardano, sono stato costretto, però non lo ritengo, io non ritengo che possa essere un programma educativo. È vero che esiste il telecomando e questa è una grande democrazia. Sì, ma nessuno ha mai detto debba educare il Grande Fratello. Educa a guardarlo con uno spirito attento. È iniziato così, parlando della televisione, quindi è un mezzo che va in televisione. E quindi chi guarda la televisione ha quell'idea che attraverso la televisione si possa imparare. No, chi ancora pensa questo si illude, ahimè, non si impara attraverso la televisione. La televisione può essere un importante filtro su quello che accade nella società, però occorre la capacità di individuarne l'angolo di distorsione, tanto che le faccio un ultimo esempio prima della sigla. Ti chiedo di aprire la busta che hai lì vicino a te, e questa è una cosa molto seria, quindi leggi ad alta voce quello che c'è scritto. Il seno bomba rischia l'esplosione. L'equipe del professor Giovanni Terlizzi del MIT, che da anni studia gli effetti delle onde elettromagnetiche emesse da radiomicrofoni, lancia l'allarme per la concorrente del grande fratello Cristina Del Basso. La prolungata esposizione a tale onde modifica irreversibilmente la struttura molecolare delle protesi di grosse dimensioni, inserite nel seno, che aumentano il loro volume di un microm ogni 4 secondi, equivalente a circa 2 cm a settimana, ha sentenziato il professore Terlizzi. Giorno dopo giorno è evidente che il serissimo rischio esce nell'esplosione delle protesi stesse. Beh, corriamo un rischio. Cristina, la maggiorata, la superdotata, colei che si è procurata una sesta di reggiseno volontariamente, che è al centro dell'attenzione erotica di tutto il paese, viene investita di una ferale notizia. Uno scienziato dell'istituto, del MIT di Boston, uno dei più grandi scienziati, dice che a contatto con le onde dei radiomicrofoni potrebbe scoppiargli il seno. Ma è vero? È certo che è vero. Cioè questo specialista affermato dice, sì, che continuando a stare nella casa il tuo seno potrebbe scoppiare. Quindi è una cosa molto seria. Tra l'altro io sono stata informata un po' di giorni fa di questa cosa. Gli autori mi hanno chiesto di riferirti questa situazione. Devi decidere se continuare a vivere lì e quindi rischiare, insomma, che questa cosa possa danneggiare le protesi, insomma, così si chiamano, così, oppure sì, abbandonare il gioco. Io ti dico questo, Cristina, siccome è una vicenda un po' delicata, sì, ti chiedo di confrontare. E cosa risponde Cristina? Vabbè, che mi importa, scoppio. Di fronte alla possibilità di rimanere dentro, anche la minaccia finta, scherzosa, del microfono esploditore non la fa desistere. Ma di fronte a una ragazza che si è costruita un apparato sintetico, momento di fascino, motivo di grande attenzione ai suoi amici, disposta a scoppiare, esplodere pur di stare dentro, cosa potrebbe valere di maggiormente efficace per educare le masse? Rispondete se potete, noi ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.